dove è Antonio? Oh. Non c'è Antonio. E mi ricordo Antonio, aiuto, No, ho capito Antonio. Aspetta due secondi, devo cercare una password, aspetta. Non veni su, mi pare che si ubbizzo, buonanotte, e me ne andare lì. Casino ha detto che entrava, e invece non c'è, sicuramente ha qualcosa da fare. Secondo me no. Ma non stavo aspettando perché mi ha detto che c'era, che era sempre accesa la radio. Questa bene va la radio, Luca. Sì, questo è Ruiz, il vecchietto. Ma come non mi legge la micro SD adesso, porca paletta. Bravo, dai, vale, vale, vale, vale, con il televisore, dai, ci sentiamo, salutami gli altri. Se dite che praticamente Carlo gli è partito sicuramente il baracchino, non funziona, ha controllato tutto, il fusibile, tutto quanto, riesce a spento, non funziona. Poi Gianni. Sì, ciao Gavi. E Carlo mi ha detto di avvisarvi che se non è entrato poco fa perché gli è partito il baracchino, non sa che cosa sia, fusibile non è, il calvetto dell'alimentazione, l'otto e non è nemmeno quello, quindi deve essere qualche componente che è partito, qualche filo che si è staccato, boh. Sì, infatti l'ho sentito che è sparito e non è più entrato. Siamo sentiti di grave. Sì, mi ha detto di avvisarvi appunto, mi ha mandato un messaggio, mi ha detto di avvisarvi che lo voleva fare maleducato, va. Sì, sì, sì, sì, sì, vabbè, no, vabbè, quando è così, no, no, no, non c'è problema, non c'è problema. Oh, yeah. Comunque c'ha l'apparato della macchina, quindi probabilmente entrerà con quello adesso. Lui è radio aveva, perché che radio gli si è rotta lui? E poi c'era quella radio bella, le ultime uscite, non so se 555 o qualche marca sia, però di quelle belle che c'erano un bel canale. Ah, aveva una radio digitale, quindi non era un baracchino normale. Era di quelli digitali, capito? È positivo. Caspita, quando è così ho un rompimento di scatole. E poi dice che stava parlando di coppia mancata, capito? O è qualche componente che è partito, perché dovete controllare sia l'alimentazione che il fusibile. Invece nessuno dei due ha controllato il fusibile, col tester va bene, l'alimentazione c'è. Poi tutto l'impianto funziona perché l'ha provato con l'acqua parecchia, adesso dice che funziona. Ma non accende neanche la radio? No. Ma cosa può essere? Cosa può essere che non so che radio sia di preciso? Aspetta, penso perlomeno che non accende, penso di no. Boh, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. E quelli lì ci mettono un attimino a partire qualche componente, qualcosa, quando sono così digitali un attimo, tutta scheda, tutto componenti piccolini, non ne capisci niente. È come le macchine, no? Adesso parte il sensore, parte quello, parte l'altro, prima non passava nulla, andavano, erano i treni di macchine, allora passi tutto. Sì, infatti era un filo, era l'altro, non c'erano discorsi da fare. Comunque, diciamo, non sa niente. Beh, io ti faccio vedere, l'altro giorno stava impazzendo, si era staccato il cavo dell'alimentazione da dietro e non funzionava l'apparecchio, toccava, non è possibile. Ed era il cavo dell'alimentazione, si era staccato, magari cosa ne sto muovendo, facendo. Sì, sì, sì, e beh, anche pulendolo. A volte in questa radio qua l'ho preso pulendolo, facendo il pennellino, si schiaccia qualche tanto ed è un casino, ed è un casino. Luca, in effetti già ci vanno la password che mi serve, aspetta. Ciao Gavino. Ciao Luca, buonasera. Infatti io oggi sentivo, oggi sì, sento bene. Fammi anche più la microSD. Ah, cazzo, mi sono assurdato. Facciamo un po' di documenti importanti in questa microSD. Beh, perché io stavo usando Superstar. Addirittura quando uso Superstar non la uso neanche con la Grazioli, lo uso con una GPS, c'è l'antenna apposta per il Superstar, sì. È più piccola e tutto. Ah, ecco, andava. E pensavo, ma stavi disturbando, no? No, no, no, è perché non mi piace stare a cambiare i connettori, capito? Quindi, quella che mi ha venduto Gio Maria, quella Sirio, quella nuova però, quella nuova, cioè quella che c'è attaccata al Superstar, ma non ha gli stessi guadagni della Grazioli, mi segui quella che sto usando adesso con questa radio. Ah, beh, certo, certo, sì, sì. Sì, ehi, ti ascolto bene adesso, avanti già. Io l'ascoltavo bene anche ieri, era con pochi watt anche, c'era 2 watt mi pare, vero Davide? Sì, positivo, 1,5 watt, proprio il limite indispensabile per attivare il relè. 1,5 watt, 1,8 watt. Vabbè, quindi a qua arrivavi bene. Sì, sì, perché diciamo in modulazione ha sempre quei 5-6 watt, poi in DP arriva a 7, ma in modulazione è sempre quei 5 watt, capito? 4-5 watt ce l'è sempre, io parlo di portate bianche, 1,8 watt, 1,5 watt. Più il watt è basso è importante, più picchi di modulazione hai e più la modulazione è tranquilla, è bella e la radio non scorda. Ah, poi lo so che è così. Invece quello che c'è per macchina ci va con 2 watt, era parecchio. Poi c'avevo 747 e mi faceva aumentare anche la radio. Vabbè, per forza, perché le dava i picchi in positivo e riempiva l'apparecchio, capito? Riempiva bene, cioè poi il 48 modificato e doppio modulatore, già lo credo che c'era più radio e che lo faceva andare. Ma io l'ho venduto perché praticamente in casa non si può tenere, prendeva un medisplatter e non faceva tenerlo. Io non avevo intenzione di metterlo in macchina, poi ho pensato 2 volte prima di metterlo, oppure l'ho messo, dai, non volevo toccare nulla. Vabbè, tanto la staffa che io ho bucato, basta mettere 2 viti nere e tappi secchi. Sì, ma vabbè, il 48 ce l'ha di suo e che prende i colpi, il 48 prende un po' di colpi, non può uscire forte il radio se lo modifichi, però prende un bel di colpi con la radio. Ah, io so che Gigi aveva fatto fare una modifica, le avevano messo tutti i cavi schermati dentro, le aveva rifatto tutta la cavetteria del circuito, le ha messo tutto quanto schermato e non prendeva colpi. Sì, e quanto ti costa? Cioè alla fine non le vale quella candela già. Vabbè, ma lui era amico di questo qua, li portava degli apparecchi, quindi magari qualche lavoretto glielo faceva, capito? Lui era quello che portava tutti i baracchini da Sassari, li portava ad aggiustare, a modificare, quindi gli dava un bel lavoro. Sì, ebbe una mano alla palla, una mano alla palla, uia. Oh, questa specie di agitazione, non ho capito il motivo. Molto hai mangiato? No. Vabbè, io già soffro di attacchi d'ansia. No, a me a volte me lo fa, se mangio molto mi vengono queste tipo tachicardia, così, mi capito? Sì, già lo fa. Vabbè, un pochino. Buah, vabbè, domani devo telefonare al condominio perché ho fatto un errore stamattina, ha fatto un bonifico al tabacchino e mi ha detto come devo farlo, come questo qua, sì, mi ero dimenticato che il mese scorso c'era da pagare praticamente 100 euro in più perché avevano fatto dei lavori, cazzo, e mi ha messo 200 euro invece che 100, adesso mi tocca telefonare e dire che praticamente lo metta per il prossimo mese e basta, tutto lì, perché io adesso a ritirare, a fare un casino. Io invece domani mattina devo andare a cosa, a Rizzetto per farmi rinnovare il piano terapeutico, ti ho chiamato, non me l'hanno rinnovato, oggi sono andato, stasera sono andato a prendermi la roba e cioè il piano terapeutico scaduto ancora. Domani mattina ci vado direttamente. No, a me scadeva questo mese, sono andato e mi sono ritirato tutto il materiale stamattina. E niente, il prossimo mese però non ne ho, quindi devo fare per forza la visita questo mese. Perché senza la visita non te lo rinnovano il piano? Ma io quando vado me lo rinnova sempre quando vado, capito? Io sono andato l'anno scorso, quindi adesso me lo vado. Speriamo che me lo rinnovi domani, che non devo fare tutte le visite, perché non c'ho niente, non c'ho più nulla. Io ogni volta che faccio la visita me lo rinnova per 6 mesi, poi dopo 6 mesi praticamente devo ritornare a fare la visita e mi rinnovano anche il piano. Adesso questa volta gli devo dire di mettermi più lancette perché non mi bastano mai queste lancette. Devo stare a Brittio, a a mettermi in insulina senza sapere quanto c'ho di glicemia. Metti, fatti dare il sensore già, fatti dare il sensore che è meglio. Io infatti devo ritirarmi i sensori e ho questo problema dello scaduto, ma bisogna vedere se devo fare tutte le visite, capito? Speriamo che me lo rifaccia senza fare le visite. No, non mi piace a me il sensore perché mi impegna quando mi giro a letto, è un ostacolo per me. No, neanche lo senti già. Allora domani devo migliorare, mi sono tornata a presaghi. Ma perché non lo fa automatico e lo danno sul codice fiscale? Io non ho capito. Li ho chiamati ieri. Se ti racconto cosa mi è successo a me. Allora, praticamente la mia dottoressa, quella di famiglia, è andata praticamente in pensione. E nello stesso ambulatorio entrava un altro dottore. Praticamente mi ha detto che avrebbe passato tutta la mia documentazione a quel dottore se mi mettevo quello, infatti ho messo quello, sono andato lì e chiedo le medicine, se io le medicine non le posso dare perché qua non c'ho il suo piano terapeutico, come sarebbe a dire, non c'è il mio piano terapeutico, la dottoressa, ma io sono un dottore, lì un altro, un prepotente. Ho detto scusi, guarda che qua si tratta di medicina salvavita, lei si sta rifiutando della medicina salvavita, io se non mi dà il piano terapeutico io non ne ho a che fare, telefono la dottoressa sta partendo a Londra, poverina si è impegnata e gli ha detto di darmelo lo stesso perché il piano terapeutico era automatico e lui non doveva fare storie, io gli ho chiamato anche i carabinieri. Ma dice che i carabinieri hanno detto che non intervenivano per questione sanitaria, ma tu vi gridi. È un casino, adesso io speriamo domani me lo rinnovi questo piano terapeutico, perché altrimenti è un casino. Senti, guarda, domani mi arrabbio, domani io sono a casa, però domani mi arrabbio. Cioè l'ho chiamato ieri, perché, anzi Bugia l'ho chiamato giovedì scorso l'ho chiamato, e niente, oggi ancora niente, poi l'ho chiamato lunedì, non ieri, lunedì, e poi li ho chiamati, e poi tornato stasera in farmacia e non c'era niente. Cioè, ma cosa li costa? Non lo so, io lo faccio sempre quando faccio la visita, non te lo so dire se te lo fanno senza visita, non te lo so dire questo. Infatti lo dovrò chiedere anche le lancette in più perché non mi bastano, glielo dico. Adesso le visite si pagano anche perché non gli hanno passato i soldi dalla regione, quindi te le fanno pagare. Ma vai, o me? Non lo so quanto sia, le analisi del sangue, quella roba lì, dice che li stavano facendo pagare sulle 30 euro, roba del genere. Perché non li ha pagati la regione, quindi l'SL non li ha pagati automaticamente, quindi loro per l'SL non fanno più, lo fanno solo come privati, basta, punto. No, vabbè, quello anche io me le pago sempre le analisi, 36 euro pago, da Leonardi a me le dà la sera, pago a Leonardi io. Quelle me l'ho sempre pagate, no, pensavo alla vista diabetologica, ai dottori che si pagava. No, non quella, le analisi del sangue, delle urine, eccetera. Ma io, guarda, non so cosa fare, se andare o no, vediamo adesso. Prego. Avanti. Buonasera, Gavino e Gianni. Ui, ciao. Ebbene, concluso hai o no? No, per adesso sto usando un'altra radio. Niente, quella così all'improvviso si è spenta, no, ho controllato tutto il cavo, fusibile eccetera, non so, domani con calma provo ad aprirla pian pianino a vedere cosa c'è dentro. Internamente magari ci può essere staccato qualche cavo dell'alimentazione, può essere. Perché ho fatto qualche tentativo e si è accesa un attimino e poi si è rispenta subito. Ho provato a toccare i fili, i cavi, l'alimentatore, niente, però l'impianto qua è a posto perché ho collegato questa radio allo stesso modo e funziona tutto, capito? Quindi non credo che dipenda dall'alimentatore qua, da cavi e cavetti, perché qua funziona tutto. Sto usando quella che avevo in macchina, adesso la piccolina, e niente, domani mattina che giorno magari si vede anche meglio, vedo un po' cosa, se riesco a risolvere, dai, riprendi pure Gianni o Gavino. Ehi, adesso se si è riaccesa, Carlo, c'è qualche falso contatto, qualche saldatura fredda, dai, fidati, non è niente di preoccupante, avanti Gavino. Ciao Carlo, buonasera, che radio è Carlo? È una Albrecht 5890. President Albert. Albrecht tedesca. Ho capito, ho capito. Ascolta, ma io devi provare una cosa, La devi aprire, guardare dove si connette, cos'ha il connettore a 3, a 2, diciamo, ha un connettore a 3 dietro, al filo bianco, rosso e nero, o sbaglio? No, negativo, escono solo i due fili dall'interno, non ha connettore, capito? Quindi non c'è nessuno spinotto che collega il cavo di alimentazione, ma i fili escono direttamente da dentro. Sì, in quel caso guarda dove può essere la saldatura fredda magari. O diciamo che entra dalla lamiera, dalla gomma, in quella curvatura dove fanno, in genere li fanno una curva per non scorrere il filo. Guarda lì, poi controlli il filo, se c'è continuità, oppure dove c'è anche un tipo di resistore di lì per l'alimentazione. Potrebbe essere anche quello. Provo domani col tester, prima di tutto controllo aprendola e appunto se c'è continuità come hai detto tu, e col tester poi vedo un po' gli altri componenti, insomma, che sono lì vicino, se ne cavo piedi, se no la porto da qualche parte a farmela vedere. Ma qua sassa di blu, chi le controlla? Non lo so chi le controlla qua sassa di quelle radio. Perché che ne controllano ce ne tanti, che la giustano ce ne pochi. Ho capito, ma eventualmente già so dove portarla, non a Sassari, capito? Sì, allora va bene, se sai dove, io spero che risolvi domani, però se sai già dove portarla, portala, perché magari anche una cosa di rallineamento, di radio. Cos'è una radio elettronica, Carlo? Sì, esatto. Allora magari qualcosa di... perché devi basta che parta un componentino piccolino che ci sia la saldatura, che si affredda, guai. Sì, poi ultimamente ci sono stati degli sbalzi di corrente qua, addirittura l'altro giorno è mancata proprio la luce in tutta la strada, e quindi può darsi pure che magari in seguito a qualche sbalzo di corrente magari sia partito qualche componente. L'altro giorno qua a casa c'è radio spente, tutto spento, venerdì sera c'erano tutte le radio spente e ho visto la luce abbassarsi e tremando, dopo la luce tremando, diciamo c'era bassa tensione, tra l'altro il mio vicino anche lui aveva bassa tensione, e questo qua è tipo un produttore di film cinematografico che lavora a casa. Ha detto meno male che non avevo la strumentazione accesa, che brucia, È probabile che sia successo qualcosa del genere, spero di risolvere, se no già in un modo o nell'altro ne procurerò un'altra, magari cambio e prendo un'altra marca. Ma se sai chi riportarla, se la riparo, ci vogliono solo gli strumenti e sapevo come mettere le mani e basta, capito? Va bene, metto da mangiare il cane, un attimino arrivo subito, riprendi Gianni. Tutto male che vada, la porti al Mino, cioè lo sai dove è adesso, la porti a lui e te la metti a posto in pochi giorni, già lo sai. Sì, infatti, la terrò a adesso prima di tutto vedo se riesco a capire, magari è qualcosa da poco, non so se all'interno ci possa essere qualche fusibile pure, perché in alcune radio lo mettono, però mi sembra strano che per un attimo si è accesa, come l'ho spostata eccetera, e si è accesa, si è rispenta, capito? Quindi sembra che se riesce a passare la corrente funziona tutto, quindi può darsi che sia o il cavo dentro, qualche saldatura che è partita, non ho idea. Sì, il cavo, oppure qualche saldatura fredda che tu segui il cavo dell'alimentazione sino allo schema e vedi un po' se le saldature sono tutte e due a posto. Provi a muoverle, se vedi che si accende quando la muovi, allora la saldatura fredda la rifai, te la stacchi e la rifai. Esatto, spero che sia qualcosa del genere, se è una cosa così è una fesseria e ritorna tutto a posto, se hanno pazienza e si procura un'altra radio, già non è quello il problema. Tanto una di riserva ce l'hai sempre, io eventualmente ne ho anche una portatile che si può trasformare anche in stazione, diciamo, fissa, mettendoci togliendo la batteria, capito, un CD, solo che credo che non esca bene in AM, capito, un portatilino che lo posso collegare all'antenna esterna, domani lo provo, dai. È un casino, quando non hai una di riserva sempre, ma comunque dovrebbe essere una fesseria, se ti rendi conto che cosa è, tu ti troverai dove è il problema, tu basta che muovi appena se vedi che si accende, va fatto, capito? Sì, esatto, tanto me lo faccio sul tavolo domani, che con la luce del giorno magari riesco a vederci meglio, mi porto su un alimentatore che ho in garage, collego, tanto mi basta solo l'accensione, non devo premere niente, e vedo un po', mi porto il tester e controllo, come diceva Gavino, se c'è continuità nel cavo di alimentazione, perché il fusibile, quello che è sul cavo, l'ho controllato col tester ed è a posto, capito? Nei due poli c'è continuità, c'è il filamento tutto intero, ho detto boh, qua è il cavo, però quando la stavo provando a staccare un attimo si è accesa, come se avessi spostato qualcosa che ha fatto, quindi spero che sia, come stai dicendo tu, qualche saldatura partita. Hai provato a muovere il portafusibile? Ho provato anche quello, ma non credo che sia quello, perché muovendo quello non ha fatto niente, invece è proprio il cavo esce dall'interno della radio, no? Ed è pressato con una specie di gommino eccetera, forse toccando quello è che ha fatto quella specie di accensione, poi si è subito spenta, quindi può essere pure che si sia magari staccato qualcosa da dentro. Se quello magari di là, ma è che c'ho qualche attacco già, cos'è, a spinotto? No, non è a spinotto, già se fosse stato a spinotto sarebbe stato più semplice, questo è, capito, escono direttamente i cavi da dentro. Ho capito. Vabbè, comunque io mi sa che ho qualche cavo già pronto con fusibile, portafusibile, e se ti serve te lo do. E adesso vedo se domani, dai, come va. Questa radio che sto usando sta uscendo bene come microfono. Benissimo, la tua voce è come verticale. E allora già va bene, dai, bene o male qualcosa di emergenza già si trova sempre. La scocciatura è che quella, diciamo, che usi di più quando ti difetta così, magari ti trovi quasi un po' spiazzato, però dai, spero qualche giorno di rimetterla a posto. Dillo a me che ho sofferto le pelle dell'inferno senza galassica, mamma mia quanto ci ho sofferto, perché a me mi piace troppo il galassi, no, sono innamorato di questa radio. È perché quando tu ti abitui per anni a usare sempre quella, poi ti sembra, cioè ti trovi con quella, poi là sapevo dove mettere le mani, poi per dire c'era lo spostamento della frequenza, per dire se uno mi diceva vai alla frequenza 27.500, capito, prendevi, schiacciavi, facevi velocemente, rimpostavi la frequenza, capito, e da quel punto di vista era molto pratica, capito, e quindi ti manca un po' la praticità di quella radio che si è abituata, e così è successo a te col Galaxy. E adesso sto usando il Ruis, nonno, questo qui è il nonno di tutte le radio, questa è più vecchia, la più vecchia che c'è, che poi è nuova, perché l'ho presa da un collezionista, c'aveva in vetrina e ne aveva anche altre, stava vedendo tutto perché doveva, era diventato radio amatore, doveva comprarsi radio amatoriali, no? Per radio amatori, quindi praticamente questa radio qua me l'ha venduta perché dice si doveva liberare un po' di spazi e cose, ma mi ha detto che se ne volevo altre, ne avevo altre, ci aveva toccato, ci aveva un sacco di radio, Lafayette, tutte le radio, quasi tutte da base, tutte nuovissime, e a me me l'ha data nuova questa radio. Yeah, oh, ciao Tori, con tanto di libretto, istruzioni, eccetera, eccetera, avanti Tori. Come in giro a quest'ora, Morelli, ciao Carlo, ciao Gianni. Perché noi siamo tutti discreti. Ah, ho capito. Quando c'è il gatto, il topo balla, eh. Così è, Tony. No, con Gianni che mi aveva risposto al mio messaggio di stasera, stavo entrando in radio e si è spento tutto, si è spenta la radio, e pensavo fosse l'impianto, invece niente, perché nell'impianto adesso ci ho collegato un'altra radio e sta andando tutto bene, quindi non è l'impianto ma è proprio la radio, però domani che è il giorno con la luce diretta del sole, dai, che mi entra alla finestra, ci vedo meglio, la apro e controllo col tester cosa si può essere interrotto, se poi non ne capisco niente già la porterò a aggiustarla. Andare, no, io ho detto poco, non c'è il gatto, dopo balla, nel senso che io faccio il gatto e quindi ho acceso così, di solito quando accendo di notte non c'è mai nessuno, adesso ci siete voi parlando e voi, ho detto completa, non c'è nessuno nel canale, vado su Dici e ti sento Gianni, ho detto balla, già non è, è raro che entra di notte, vero Gianni? Sì, anche di notte sono entrato, sì, qualche volta se c'è gente, sì. Sto entrando adesso di notte. Adesso quindi stamattina ho fatto un errore allucinante. Quando sono andato a fare il bonifico, gli ho dato il vecchio bonifico e mi ha detto com'è questo devo fare? Sì, non mi sono ricordato che avevo pagato il mese scorso anche l'avvocato per il condominio, no? E quindi c'erano 100 euro in più e mi ha fatto pagare ancora 200 euro invece che 100. Deve stare attento con i soldini. Già ce ne sono pochi, però capito. Allora, comunque, sempre bene, sono arrivato Gianni. Sì, sì. E a te Carlo? Sempre bene, Tony, mica è rientrato Gavino. Ciao Gavino. Ciao Tonino, buonasera. A te già ti arriva bene, in campagna? Sì, 9-10. Vabbè, campagna più campagna, uguale campagna. Ok. Va bene, bene, bene, dai, comunque fa piacere che anche la notte occupate un po' la frequenza, perché di solito non ve ne manco nessuno, infatti accendevo e poi spegnevo subito, 2-3 secondi spegnevo tutto, almeno c'è un po' di persone che muovono, dai. Vabbè, se c'è gente io già entro, io accendo, se vedo che non c'è nessuno me ne vado a guardarmi il televisore, almeno che ci sia qualcosa al televisore che mi interessi. Tu ti guardi i fantasmi, lasciali perdere i fantasmi, lasciali vedere dove sono, se no qualche notte ti tiro le coperte. Sì. Ma non sto più guardando Tony, mi ha un po' stufato, perché il primo periodo dove veniva lo Zuddu, ma poi adesso ultimamente non si vedeva più nulla di concreto, là. cercavano, si sentivano le voci, però non si capiva, tutte confuse, parlavano tutti insieme, fantasmi e cose. Quindi non si capiva nulla, invece in altre volte che ho ascoltato avevano fatto suonare il pianoforte di colpo, cazzo di assurdo, mamma mia, mi è giunto lo Zuddu in saluto. Vabbè. Niente, sto seguendo sul canale 20, danno sempre quei film belli veramente, ne ho seguito due, una volta tre addirittura, e non c'era sonno e ha preso sonno alle 3:30 del mattino, fatto il conto, alle 5 in terra. Avanti Carlo. E io io solitamente a quest'ora lo stesso guardo la televisione, solo che oggi mi è successo questa cosa con la radio e adesso volevo provare questa se era tutto a posto e niente, quindi Gianni mi ha detto che era sul 10, quindi sono entrato più che altro a salutarvi perché non mi trattengo più di tanto adesso. E niente, dai, faccio qualche altro passaggio e poi anche io me ne vado alla TV. Riprendi pure Gavino. Sì, sì, no, va bene questa radio. Oh, Carlo, io ti sento benissimo qua, Mi arrivi benissimo qua, come l'altra. Dai, magari non ha stupidaggine, Carlo già si risolve. E tu le radio già non le strappassi, quindi non, almeno che non sia. Prego. E non le strappassi le radio, quindi non c'è pericolo di quello, Carle, magari una stupidaggine. E Gianni, ascolta, ma l'hai guardata quella frequenza che ti ho detto nel ricevitore? Sì, ma non me l'hai mandata, che mi hai detto, non me la sono ricordata. Tu mi hai detto che me la mandavi su Messenger, quindi io mi sono tranquillizzato, non me l'ho segnata, e però non me l'hai mandata, quindi non sono andato a vedere. Te la sto mandando, adesso te la mando. Adesso ti faccio la fotografia al foglietto che mi ho fatto io e te le mando. Via, non c'è problema, già ci vado. Oggi stavo ascoltando, però ero sui 7100 e qualcosa. Sì, sì, anche io quando l'ho acceso oggi che mi è arrivata la radio stavo ascoltando lì. E niente. E qualcosa si sente qua di strano in questo che ti ho mandato, mi te lo mandate già. Ieri poi le guardo, che il telefono ce l'ha in carica fuori, poi le guardo e domani mattina se c'è ombra di dubbio le controllo. Se dovrò andare a fare le analisi domani mattina, se ce la faccio, se vedo che la glicemia ce l'ho bassa vado a fare le analisi, se no rimando. Copiato Gavi. E magari si è spostato Gianni. Kappa. Vabbè, Tonino riprima. Ci sono, scusate, ma stavo spostando il cane. Sì. Vabbè, io sono, mi guardo un altro film, mi spazio per i cani. Perché il baracchino ce l'ho tutta l'altra parte del letto. E quindi andare a consumare con il isolatore è sempre un freddo. Spiego tutto, mi ci fila nel letto e guardo la televisione. Vabbè, mi fa piacere comunque. Piacete la lite, vi ascolto un pochettino, poi spiego tutto. Ok, non proseguo, ciao Gianni, ciao Gabino e ciao Carlo. State bene, cuore tanto da parte mia, ciao. Ciao Tony, buonanotte. Ciao Tonino, buonanotte, ci sentiamo anche io adesso. Mi ritiro perché è un po' tardino, sono le 9:30, guardo un po' di TV, ma non credo che farò tardi neanche alla TV. Ciao Gianni, grazie dei consigli, altrettanto Tonino, Gavino, scusami, non so se vi trattenete ancora voi, ma anche io adesso me ne vado un po' a rilassarmi, qua spengo tutto e riaccenderò domani. Grazie mille dei consigli di nuovo a tutti e due. Ma figurati, sono i punti, sì, non è che siano cose sicure, ma prova a controllare quelle cose, sono le cose principali che si controllano. Va bene, dai, ti auguro una buona notte, Carlo, tranquillo e già si risolve. Avanti, capi. Radio accesa, se serve qualcosa chiama, ok, ripeti già. Abbiamo parlato in due. Vabbè, ciao Gavi, ciao Carlo, dai, buonanotte, ci sentiamo domani. Avanti Gavi. Sì, io, va bene, ripeto. Ciao Carlo e ciao Tonino, ci sentiamo domani. O alle prossime. Carlo, se ti serve qualcosa, io domani dopo le 16 c'ho la radio accesa. Quindi fare una chiamata e non c'è problema, ok? Buonanotte, riprendi già. Ah, poi se non c'è il numero di telefono, basta che mi chiama, non c'è problema. K, a disposizione. Avanti, Gavino, dai. Oh, yeah. Mi sto stiracchiando. Non so cosa mi è successo l'altro giorno, stavo messaggiando con un'amica e mi ero appena svegliato e mi sono messo a stiracchiarmi, sembrava che se si faceva da lavoro facevo l'amica mi ha detto ma cosa mi hai mandato? E anch'io, io sono sempre perennemente mal di schiena e poi e sempre là sono comurente, ma io di mal di schiena soffro la paura, l'altra notte mi sono svegliato con un dolore forte alle spalle, guai. Ci sono degli esperti, cavolo, che ti fanno scroccare tutte le parti. L'ho visto io nei filmati a questa ragazza, cavolo, prima il collo, e lì è rivissuta, proprio non gli faceva più male di colpo così. Poi ha preso la schiena, si è messo sopra di lei, le ha messo il gomito dietro la schiena, le ha dato uno strattone, ha fatto tra, cazzo! Proprio perché sono i punti, capito? Gli osteopati sono quelli. Gli osteopati. Io conosco, ne conosco uno bravo, ma bisogna vedere quando era a farmi staccare un po' di ossa io, perché sono tutto intrippato. Perché poi solo a guardarti ti dicono, cioè c'è gente che ha la gamba un centimetro e mezzo più corta dell'altra, ma prendono, la tirano, gli portano a posto le ossa. È strano. Sì, fanno queste cose, gli ha fatto nei piedi, gli ha tirato le gambe, è vero, gli ha tirato le gambe dai piedi, gli ha tirato, ha fatto tra, questa qua era tutta quanta, sembrava che l'avessero schiacciata, cazzo, era tutta secca, e quando si è alzata ha fatto un sorriso come dire, ah che bello, mi sento diversa, ha detto. Sì, perché proprio ti libera, è come quando vai a farti la pulizia dei denti dal dentista, che ti senti libero, capito? No, sono cose che fanno bene. Guarda che sono cose che ti migliorano lo stile di vita, Perché si fa, secondo come si è messo, con 4 sedute ci vanno 2 o 3 sedute e sono 100 euro a seduta, però dice che ti migliorano lo stile di vita la giorno e la notte. Sì, ho visto questa ragazza che l'ha fatta ritornare, prima il collo, prima l'ha dato, io pensavo di saccavare un gambo di colpo, prima l'ha tutta quanta massaggiata, poi come tra, cazzo, un zocco ha fatto, ogni zocco, tra. Sì, fanno proprio quello, senti quando ti scrocchiano le ossa, ed è un sollievo, dice che è un sollievo bellissimo. Dice che è assurdo. E non prendono neanche tanto, prendono sulle 80-100 euro a farlo, però anche queste cose qua sono importanti, cioè ti aiutano nella vita giornaliera, perché quando riposi male, perché sei incriccato, perché vedi freddure, perché hai fatto sforzi strani, cioè vivi male, e poi non è che guariscono dall'oggi al domani, ti rimangono queste cose. Cappa, ma io non so come abbia fatto a partire il messaggio, capito? È partito il messaggio vocale, mentre io stavo chattando con lui, è partito il messaggio vocale, mentre io mi stavo stiracchiando. E sempre mi ha detto, guarda, mi hai fatto crepare dalle risate, perché non capivo cosa era, sinceramente, sentivo, che bello, Oh, io. A volte parto dei messaggi, come a volte parto messaggi, capita che magari ti chiamate bestemmiando. Non ti è mai capitato che vai il messaggio di uno all'altro? Di brutto. O chiamare, oh vabbè, miserabile! E vedo, a me si dice, oh scusa! Succede, infatti, magari se ti capita, io vabbè non sono tipo, però se ti capita, se parlano male proprio della persona a cui arriva il messaggio e non è indirizzato a lì, te lo immagini, magari se parlano male di lui e ti sente quello che dici. Ti sputtare da solo, no, a me le chiamate a volte sbaglio un numero, mi dicono, miserabile, e beh cose. Non capi, ma me sta dicendo, cosa è successo? Se già ti capi, già ti capi, non mi capita spesso, ma mi è capitato un paio di volte. Sono cose che succedono involontariamente, capito? Oppure, vabbè, te lo dico quando ci chiamiamo al telefono, che qua non fa dirlo. È successa una cosa che al baracchino pure. È profonante. No, che si sono dimenticati la portante aperta e si sentiva tutto quello che diceva. Sì, quello è classico, ma quello ho sentito anche l'altro giorno. Gli è successo di pomeriggio che c'era una portante aperta parlando. Vabbè, io la mano fa più con nessuno, sono garasura. Ah, tu vivi proprio solo adesso, ma abiti sempre da casa, dove abitavi sempre? Sì, no, io ho la compagna, ma sta lavorando e ha trovato un lavoro 24 ore su 24, c'ha le giornate libere, basta. Va bene, mentre la tua famiglia è con tua moglie, diciamo tuoi figli. Cosa? Non ho capito. Mentre con tuoi figli vivono con tua moglie. Sì, i miei figli vivono con mia moglie, ma vengono molto spesso qua. Beh, è come giusto che sia, purtroppo sono cose che succedono. Purtroppo sono cose che succedono, per quanto bene si voglia, però sono cose che succedono. Vabbè, continuiamo ad andare innanzi, capito? Cosa devo fare? Mi devo ammazzare? No, assolutamente no, ma scherzi. Non bisogna farlo, anche perché tu e la tua famiglia hai avuto anche risultati. Perché tua figlia si è laureata, tuo figlio sta studiando, sono ragazzi seri, quindi non c'è proprio non ci sono le condizioni per farlo. Ci sono solo le condizioni per prendere e vedere vivere meglio, mi segui? Sì, ma poi anche con la mia ex moglie vado d'accordo, lì era qua anche a Natale e a Capodanno è venuta qua a casa per non lasciarla da sola. I miei figli mi hanno chiesto di portarla a casa e io l'ho portata a venire, non c'è problema, c'era anche la mia compagna. Ma è giusto che sia così, è giusto che sia così. Purtroppo a volte succede. Però l'importante è prenderla bene e andare avanti sia per i figli sia per se stessi. E diciamo che te devi fare una ragione e basta, tutto lì. Se l'amore finisce, capi, cosa devi fare? Bene, ci vogliamo bene lo stesso, perché anche lì a me mi vuole bene. Tutte le cose mi chiama, si confida con me, però siamo rimasti amici e basta, capito? Tutto lì. Sì, infatti. Anche se non riuscirei, io ho un carattere che non riuscirei a fare una cosa così. Però se chi riesce, come può essere tu, è dato te. Io non riuscirei a fare una cosa così. La vita, io penso che la vita sia una, no? Te la devi godere, in pieno. Perché stare a bisticciare, a tutti i giochi, a metterti avvocati, no? Noi ci siamo aiutati l'un l'altro, capito? Io gli ho comprati i mobili per la casa nuova, gli ho comprati io i mobili, capito? Li ha lasciato quelli che c'erano, li ha lasciati qua. E li ho comprati tutti nuovi, dall'A alla Z, capito? Sto buttando tutti qua le baghe dei mobili. Già. Sì, ma giusto così. Va bene. L'importante è andare avanti. Sì, ma ci chiamiamo anche al telefono, lei mi chiama, io la chiamo. E anche per i figli, capito? Bisogna. Adesso ultimamente ci siamo chiamati perché Marco voleva trovare un lavoretto, qualche cosa, l'ho portato all'ufficio di collocamento, l'ho iscritto all'ufficio di collocamento e gli ha dato delle buone possibilità perché lui l'informatica è bravo e stanno cercando molta gente sull'informatica, dice che stanno facendo molte richieste è soggetto a chiudere il computer, capito? Sì, lo so. Lo so che non ci fanno molte persone per informatica. Vabbè, magari trova il vostro coso, il vostro buono e dai, anche lui si fa una famiglia. Anche lui si fa una famiglia. Lui ha. Beh, già, io sono un pochino appetitino. Mi sta calando un po' la palpebra. E un po' di sonno. Ui. Come andate oggi il lavoro? Questa mattina. Buongiorno. Mezzogiorno un quarto era, poi ho raggiunto il corriere che mi ho ritirato il pacco, perché c'è un amico là che lavora con SDA, ma che altro, va dimmi che c'è il tuo pacco e l'ho raggiunto a Parottone, sono preso, sono venuto qua a casa, mi ho fatto la stazione in ordine e mi ho montato l'antenna per questa radio qua, quindi mi sta arrivando l'antenna a filare e niente, gli metterò quella dopo. L'hai presa già fatta? Sì, perché qua non si trovano autorui di 039 verse, non se ne trova, cioè ma quando va giusto? Qua non si trova nulla, bisogna dire che è tutto da internet, non trovi nulla. Vabbè Gabi, dai, se sei stanco vai pure, non c'è problema. Ti auguro buonanotte, dai, ci sentiamo. Stammi bene, a domani. Grazie per il questo e buonanotte, dai, ciao. Figurati già, grazie a te per il questo, dai. Sì, sono... sembra così, ma stamattina, caspita, ho fatto un bel mazzo. Ho lavorato non tante ore, però intense. Poi non è solo quello, in campagna c'è sempre da sistemare i cani, queste cose qua, si mettere a posto, fare. Sono già le 10 e caspita, la durata non finì mai. Va bene Gianni, grazie, buonanotte anche a te, ci sentiamo domani, tanto io domani dopo le 16 ti ripeto la radio già accesa, chiudendo verso le 4:15, 3:30 domani, quindi dopo quell'ora già accesa la radio, ok, ciao Gianni di nuovo, buonanotte. Ciao, buonanotte Gabriele.